24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Forse non era il giorno giusto, ve la posso concedere. Forse non era il giorno giusto, così dice Vito Crimi, colui che ha combinato un mezzo guaio lì alla commissione, lì la giunta che deve decidere sulla, doveva decidere sulla decadenza Silvio Berlusconi, concede questo, ha fatto un casino inenarrabile. Forse non era il giorno giusto, ha fatto un post su cos'era la prostata di Berlusconi. Mamma mia, mamma mia. Cari italiani, buongiorno. Sono le 6:32 minuti, questo è 24 mattino. C'è la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, insomma la squadra è gran completo. Potete mandarci anche un messaggio al 349-238-6666, noi stiamo qui fino alle 9. E guardate, ho aperto i giornali anche oggi, ho visto la battaglia sull'IMU. No, la battaglia sull'IMU no. Si è riaperta la partita sull'IMU, ho detto no. No, ma non è l'Italia, siamo su Marte, non è possibile, non è possibile. Mi è venuto subito l'ispirazione a dire il nostro. Basta, basta, basta! Eh sì, Oscar Giannino, Docet, vabbè. Apriamo il Parlamento, va, apriamo il Parlamento, tiriamo su la serranda, la battaglia sul l'IMU, ragazzi, l'IMU. No, no, no. No, l'IMU no, no, non posso reggere questa cosa, l'apertura dei giornali sull'IMU, riparte la questione dell'IMU, pagare sulle case di pregio una parte degli italiani. Questa è l'idea di un emendamento del PD, tra l'altro sul Corriere è spiegata così, fatto un emendamento del PD per riaprire il dossier IMU, far pagare alcuni più ricchi e scongiurare così l'aumento dell'IVA. Ma l'IVA è già aumentata. Ah, forse perché riaumenta ancora, se no, ma no, ci ho rinunciato. 6:34 minuti, voglio salutare Silvia Brasca, bentornata Silvia, come buongiorno, stai? Come buongiorno. Stai? Meglio della tua Inter, peggio della tua Inter? Come stai? Ho raffreddore, quindi. Ecco, vai, stai. Prende freddo lo stadio. Stai come la tua Inter, col raffreddore, va bene. Ti presento e voglio c'è peggio, comunque. C'è di peggio, a me lo dici. voglio salutare il grandissimo, ritorna con noi Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. Alberto Forchielli, buongiorno. Ciao Alino, come stai? Bene, bene, dove ti trovi? Dove sei? Sono a Monaco di Baviera. A Monaco di Baviera. Una curiosità, perché Forchielli, dovete sapere, vive tra Pechino, Hong Kong, Monaco di Baviera, Boston. C'è l'IMU in questi paesi o il corrispettivo dell'IMU, una tassa sulla casa? No, in Cina no, ed è molto dibattuta la cosa, ed è molto ingiusto che non ci sia. A Hong Kong no, in America invece è molto pesante e sostanziale. In Germania onestamente non lo so, immagino di sì, ma non credo che sia nulla di clamoroso, cioè non la vedo mai al centro del dibattito politico. Soprattutto non, mai che torna, viene, torna, si riapre il dossier, si chiude, si riapre, si richiude, si riapre per pochi. Dire una cosa su Crimi, va? Crimi, tremo, no, siamo tutti pronti, siamo seduti. No, beh, Crimi è completamente imbazzurlito. Farebbe meno danni a casa con YouPorn che in commissione con iPad, su questo non c'è dubbio. Ah beh, sì, sì, e ne ha combinata poi, una sua. Poi se vuoi tornare sull'IMU, io penso che il dibattito vada alzato. La classe borghese si deve prendere le proprie responsabilità e a noi serve una grande patrimoniale. La classe borghese attenzione. Si divide in due. Quelli che hanno sempre opposto onestamente Berlusconi per 20 anni, che avranno l'intelligenza di capire che tocca loro tirare fuori soldi, gente come me, sarei molto felice di tirare fuori un importo per dare una bella botta al debito in un momento in cui il mondo ci guarda favorevolmente perché bingo bunga se n'è andato. Poi c'è un altro pezzo di classe borghese, che ritengo meno brillante, che ha sostenuto Berlusconi, che va giustamente punita, con un IMU importante. Cioè adesso chi ha votato Berlusconi va punito e chi sì, non ha... Sì, vabbè, siamo come al 46. E cosa sì, facciamo? Non, parli, no? Sì. Non ho capito, andiamo per strada a dire tu hai votato Berlusconi, sì, punito. No, niente. No, ma questa, la questione è la classe borghese deve assumersi le proprie responsabilità se vuole avere il diritto di avere un minimo di influenza sul futuro di questo paese. Non credo che la classe borghese alta possa moralmente cercare di evitare un IMU importante che assomigli a un importante patrimoniale. Okay. Vabbè, insomma, siamo alle nuove lotte di classe, mi sembra di capire. Vorrei chiedere a Silvia Brasca, tu paghi l'IMU, ce l'hai la casa, la sì, prima casa? Sì, la casetta. Sì, la casetta, sì. Va bene. E si paga e volentieri, io sono una che le tasse le paga volentieri. Sì, insomma, volentieri, uno splendore. Ma invece, vabbè, no, Vito Crimi. Lui mi sembra appunto Forchelli, che è un po' cioè, quello il lodo modiano, no? E sul quale sono anche d'accordo. Il fatto è che quella parte di borghesia che si prende la sua responsabilità, fino ad oggi a quella parte lì ha parlato, è riuscita a parlare solo Berlusconi, quindi è molto difficile da anche da cogliere, secondo me. E sulla patrimoniale, così come mi sembra negli ultimi tempi Modiano si sia espresso, sono totalmente d'accordo. Una grande patrimoniale. Ecco, io ripeto, le tasse si pagano volentieri se vanno a finire bene. Sì. No, ma è la questione del dibattito dell'IMU che voglio dire. Il dibattito dell'IMU. Beh, una roba veramente... Sì. Ecco, lasciamolo perdere. No, tra l'altro questo emendamento del PD pare sia stato fatto per far pagare una parte dei più ricchi, per recuperare dei soldi, ma subito Franceschini ha fatto un vertice per toglierlo. Cioè, forse oggi lo tolgono perché si sono resi conto, ma vi rendete conto? E se ne parla. Per un giorno abbiamo il titolo, Forchielli, per un giorno abbiamo il titolo sui giornali, poi domani un altro giorno, domani non se ne parlerà più. Vabbè. Roba da topolino, perché sono dei bambini, c'è bisogno di grandi cose, c'è bisogno di grandi messaggi, c'è bisogno di un grande gesto. La borghesia italiana si deve riscattare agli occhi delle classi più deboli e si deve riscattare non a parole, non a lobby, ma facendo un passo avanti e dire noi ci siamo. Tra l'altro la scorsa settimana, uno degli altri temi che c'è sui giornali, la scorsa settimana ne abbiamo parlato, c'era anche Forchielli, era il tema Alitalia. Allora Silvia, ti faccio una domanda così, a te interessa avere una compagnia di bandiera, così da giornalista, no, di La 7, interessa salire su un aereo sapendo che è una bella compagnia di bandiera italiana o interessa sapere che funzioni tutta meraviglia? Detto che le due cose non è escluso che possano funzionare insieme, fa parte del nostro immaginario. Mi ricordo ai tempi dell'ultima crisi d'Italia, Fini, di cui abbiamo perso le tracce, sì, abbastanza. Che dice che a lui piace negli aeroporti vedere la livrea, il tricolore, sì, la livrea tricolore. Di colore dell'Italia. Ed è la sensazione, e Forchielli, non so, insomma, quando si è messo in un aeroporto che si vede quella livrea, uno dice a casa, ecco. Qualcosa vuol dire, non è che ci si rinunci proprio così. L'idea di vedere, non so, Forchielli quando vede la livrea italiana cosa fa? Quando vede il tricolore. No, quando vedo cos'è Forchielli, cos'è che fa qua? No, beh, quando vedo la livrea dell'Italia mi tocchi marrone, perché vuol dire che arriverà in ritardo, che mi porterà in un hub che non sarà quello, che mi tireranno i piatti in faccia quando cerco di mangiare, io sono molto patriota. Addirittura, che le tira i piatti in faccia? No, gli assistenti di volo all'Italia ti tirano i piatti in faccia, Sì, la scortesia sia la non manca, sia aerei vecchi, no, all'Italia se cerco... Nessuno cerca di volarla al mondo. Quando ho degli amici stranieri che vengono mi dicono: Roberto, ma se volo all'Italia me lo consigli? L'ultima volta che ho volato all'Italia ero su Magnifica e mi è rimasto in mano il pomello per tirare giù il sedile, capito? L'ho sgretolato. È vero che ho peso 120 kg. Ecco, appunto, diciamolo Forchielli. Sono fuori stazza. Anche il peso. Tornando all'Italia, esiste una via d'uscita, nel senso che dall'Italia ha questo hub di Fiumicino con molti slot e i cinesi hanno molto bisogno, avendo così una forte influenza sull'Africa, hanno molto bisogno di uno slot fuori dall'Africa. Sì. E Fiumicino e l'Italia per loro sarebbe l'ideale, al punto che in questo momento stanno guardando Atene che non è neanche comparabile. E cosa dovremmo fare? Cioè vendere ai cinesi? No, vendere ai cinesi no, perché non so se comprerebbero, però io farei un ulteriore tentativo per coinvolgere le compagnie aeree cinesi. No, perché loro, oggi loro hanno un interesse strategico su degli slot importanti fuori dall'Africa. Oggi, per esempio, sul quotidiano nazionale ho trovato questa notizia: il ministro dell'economia degli Emirati Arabi Uniti, Sultano Bin Saed Al Mansouri, dice: siamo interessati all'Italia, però prima risanino i conti, che sembra quasi una premessa. Vabbè, prima risanino i conti. Non c'è l'ENI, dice che non c'è benzina dopo sabato, cioè l'ENI ha detto da sabato, cara Silvia Brasca, non riforniremo più di benzina, del carburante agli aerei di Alitalia. È la stessa copione dell'altra crisi d'Italia, certo, uguale. Certo. Ci mancano solo le hostess al Grande Fratello, perché io mi ricordo dell'altra crisi. Ah, sì, è vero. In quel momento c'erano state le due star, sì, no? Sì, che sono diventate il Grande Fratello. L'altra politica finì alla regione Liguria. E non mi sembra sia finita politicamamente benissimo. È vero, ha avuto anche dei problemi. Eccola lì, con l'Italia dei Valori. Quindi ecco, ci vengano risparmiate le hostess col cappio. Ecco, con tutto rispetto per il loro lavoro, perché adesso proprio malissimo, così dai, non si viaggia sull'Italia, è vero. Brava Silvia, tieni alto l'onore italiano, che qui Forchielli sgretola i pomelli. Meno nazionalista del mondo, però insomma, oste sgarbate ce ne sono da tutte le parti, ecco. Lavorano tanto anche loro delle volte, dai, non faccio questa difesa un po' d'ufficio, dai. No, dai, facciamola, giusto, Forchielli qua va sugli aerei, sgretola con i pomelli, sfascia i sedili e poi se la prende. Invece che con i suoi 120 kg se la prende con Alitalia, no? Non ho capito, Forchielli. Però la verità è questa. No, ma che sugli aerei, l'Italia invecchia anche la plastica, capito? Sì. Capito. Ma Forchielli, questa cosa dell'ENI che dice entro sabato poi non c'è più benzina, che cos'è, tra virgolette, un ricatto, cioè un fin già visto, oppure una cosa concreta? Cioè ieri c'era il piano Ferrovie all'Italia, che pare naufragato, di cercare a Palazzo Chigi di mettere insieme Ferrovie all'Italia, ma pare che sia una cosa già tramontata. E che succede tra sabato e domenica? Cioè c'è il rischio di un fallimento proprio dietro l'angolo? Ma è molto probabile che tecnicamente parlando l'Alitalia potrebbe anche già essere fallita secondo i parametri contabili, è figlia di quel maledetto compromesso favorito da Passera per fare un favore a Berlusconi, quando nel 2008 Berlusconi fece la campagna elettorale per dire l'Alitalia deve rimanere italiana, quando ormai c'era l'accordo con Air France fatto. Detto questo, sì, no, l'ENI alla fine continuerà a dare il carburante, noi continueremo a fare il buco, poi dopo pagherà pantalone come sempre. Pagherà pantalone. Ormai, guardi, sarà dai primi anni 90, dagli ultimi anni 80, che l'Italia non fa un utile e alla fine ha sempre pagato pantalone. Abbiamo fuso due compagnie, in Air One e all'Italia, in sfregio alla legge antitrust, e siamo a meno della metà degli aerei che c'erano prima. Il modello non regge. Viva Pantalone! Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Rientriamo poi con la segreteria telefonica, il nostro Alberto Forchielli, la nostra Silvia Brasca, tra poco. 24 mattino. Milan, ma mi sai spiegare perché tutte le settimane il Senato smette di lavorare giovedì all'ora di pranzo e riprende a lavorare il martedì? Quindi ben 4 giorni di riposo. È pazzesco tutto questo, è pazzesco. Ma Grasso non aveva detto che volevano lavorare 5 giorni alla settimana come tutti gli altri italiani? Dammi una tua risposta, per cortesia, grazie. Aletta, è vero, tu hai preso la fiducia l'altro ieri, no? Ma sto a dare se non te la pago, ha capito? Non te pago un cazzo, Letta! I soldi sono finiti! E a bello! Allora, caro Alessandro, io non solo sono incazzato, ora sono incazzatissimo, nerissimo, in più sono anche nero, vado il caso. Non ce la faccio più con questo qua della Lega. Ti dico io cosa ha portato la Bossi Fini. Ma se sembra giusto che mi che sono qua da 21 anni, sono arrivato qua in Italia, che ne avevo 19 anni, ma ti sembra giusto che i miei figli che sono nati qua, in Italia, che io vado a pagare 87 euro per fare il permesso di soggiorno? Buongiorno. E senta, mi sono anziana e purtroppo che ne so, ho passato tanta miseria, ma tante parole. A colpa di tutti i politici, quei grandi governanti, perché soldi che ne ha tanti, tanti, e tiene la gente in miseria, questo sì, a colpa. E vabbè, anche un insieme di lingue, di idiomi, di dialetti, Silvia Brasca, l'immigrato che parlava in Milano, mica su chi, da 21 anni. Che su chi a lavorare, fa straordinario. No, oggi erano delicati, uno scatto è l'odo di Nolfi, che poi di Nolfi si arrabbia. No, c'erano delicati. Sì, qua c'è da dire, allora, io dico solo questo, con il femminicidio, nella legge sul femminicidio vogliono salvare le province, guardate che non è uno scherzo, Nella legge sul femminicidio da approvare entro il 15 ottobre vogliono salvare, l'emendamento per salvare le province. Poi Repubblica dice sul finanziamento ai partiti niente, stanno prendendo tempo, ma io non lo so, ma cosa bisognerebbe fare, Silvia? Cosa noi, più che denunciare, più che dire, cosa bisogna fare perché in Italia succeda qualcosa, che si faccia, che sia concreta? Alino, ma che domande? No, aiutami! Che domande mi fai? Cioè, le abbiamo provate anche abbastanza tutte. Non lo so, appigliamo la speranza. Ieri dopo ti ho pensato quando sentivo Giachetti, insomma. Sì, Giachetti ha ripreso il digiuno contro la legge elettorale. E lui anche lì che conta come te, quindi sì, forse. Sì, sì, sì, ma è giusto. No, è qua Forchielli. Ieri mi sentivo ripetere tutti, guarda, ieri seconda serata da Piazza Pulita a Porta a Porta, non si può andare a votare col Porcelli. Però rimane così. Ecco, allora Forchielli, siccome Forchielli in un punto di osservazione interessante, la Germania, dove sono andati a votare da poco, si parla adesso di politica? No, stanno già facendo, no? Non vogliamo mitizzare la Germania, per carità, Forchielli, ma stanno, cioè c'è dibattito politico oppure si fanno le cose? Facci capire un po'. Sì, il dibattito politico in Germania è molto basso, nel senso che non ci sono stati punti molto divisive nella campagna elettorale. Adesso si sta facendo anche in Germania un po' di mercato delle vacche per poter mettere insieme i socialdemocratici con la CDU. I socialdemocratici stanno chiedendo qualche costo un po' populista, come l'innalzamento del salario minimo, stanno cercando un po' di ritornare indietro sulle riforme fatte da Schröder, però sostanzialmente il dibattito è poco. Crudele, anche perché, come disse Bill Clinton, it's the economy, stupid. Eh sì, è l'economia. Nel senso che l'economia tira e la gente sta lì attaccata a Angela Merkel, che piaccia o che non piaccia, però comunque alla fine ha dimostrato di aver saputo navigare il paese nella burrasca e la gente è stata cattiva. Allora, Forchielli, so che non ci sentiremo per 3 settimane, come faccio io? Forchielli va negli Stati Uniti e con il fuso orario non potrà stare con noi. Una perla finale. Vi lascio la mia eredità per le prossime 3 settimane. Occio al cuneo fiscale, perché lì si va verso l'incuneo fiscale. Sono tutte balle, i soldi non ci sono, sarebbe importante, ma un incuneo fiscale da 10-15 euro al mese ci tiriamo per i fondelli. Se Letta vuol sopravvivere deve proporre cose forti. Il mondo è in adorazione della caduta di Berlusconi e si aspetta qualche messaggio forte. Vogliamo vogliamo gli investimenti stranieri, vogliamo, facciamo vedere due o tre cose veramente forti. Basta il chiacchiericcio da IMU, da bar, basta. Ecco. Questo è un paese che va ricostruito, si può ricominciare a ragionare, se Letta si fa trascinare in questo dibattito della retrobottega, siamo veramente finiti tutti. Speriamo bene. È un 1946, riemergiamo da 20 anni di distruzione. Va bene. E questa è l'eredità che ci lascia Alberto Forchielli, l'incuneo fiscale, è una cosa che insomma più che forte mi sembra già dolorosa. Grazie Alberto Forchielli, grazie a Silvia Brasca del TG della 7. Ci ritroviamo presto, è tempo di Giornale Radio. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, le 7:18 minuti. Ci siete con noi, cari debosciati. Vi siete svegliati. Buongiorno e benvenuti e bentrovati. Siamo pronti a leggere i giornali con voi. Vi ricordo che oggi avremo ospite tra un'ora scarsa, 8:15, il ministro Cécile Kyenge. E sul tema Lampedusa torneremo su questa vicenda. Sarà con noi Cécile Kyenge alle 8:15, minuto più, minuto meno. Poi altri ospiti, avremo dopo di lei anche il procuratore capo di Agrigento, Renato Di Natale. Avremo con noi il deputato leghista Gianluca Pini, con le polemiche anche sulla vicenda Lampedusa. Insomma, torniamo a occuparci di questa tragedia avvenuta nella fine della scorsa settimana. Questo più avanti. Ora di cosa parliamo? Beh, lo scopriamo leggendo i giornali in edicola. È martedì 8 ottobre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre su cuneo, sgravi contributivi e tagli IRPEF sui redditi bassi. Questo è il tema dell'incontro governo-sindacati, dunque il tagliare le tasse e quindi il cuneo fiscale per dare più soldi in busta paga ai lavoratori. E poi la questione dell'IMU, ne abbiamo già parlato alle 6:30, sembra di essere non sulla Terra ma su Marte, perché si riapre il dossier IMU, ma almeno per un giorno, può darsi che sia anche un po' una bolla di sapone, perché c'è un emendamento del PD che potrebbe essere già ritirato oggi, però intanto fa titolo sui giornali per un giorno. Corriere della Sera, si riaprono le ostilità sull'IMU, questo è il titolo di prima pagina. Repubblica, PD-PDL, nuovo scontro sull'IMU. La Stampa, IMU sulle case di pregio, emendamento del PD. Il Messaggero, IMU, scontro sulle rendite alte. Il Giornale, Letta rimette l'IMU. Il Fatto Quotidiano, IMU, il governo litiga, non è cambiato niente. E poi andiamo su altri temi come il secolo XIX, stallo all'Italia, francesi vicini, oppure Avvenire, un inferno dopo l'altro e li chiamano clandestini. E invece Il Manifesto, l'Italia bara, ma in questo caso si gioca in modo macabro sulla parola bara, visto che c'è la foto delle tante bare esposte a Lampedusa. Ora meno tasse sul lavoro, invece è il titolo dell'Unità. Mentre Libero, da qui voglio aprire come lettura, come prima proposta che leggo dai giornali, e con l'invito mani strette sul volante, cari italiani, se state guidando, e tazzine del caffè bollente da appoggiare subito sul tavolo. Eccolo il titolo di prima pagina di Libero: l'ultimo scandalo, la RAI usa il canone per regalare gioielli. Per carità, bisognerà verificare, ma questo titolo, corredato poi dall'inchiesta di Giacomo Amadori in prima pagina, è di quelli che non ci ben dispone a iniziare questo martedì 8 ottobre. Allora, Giacomo Amadori: orecchini d'oro, orologi, penne, doni per centinaia di migliaia di euro l'anno a politici, diplomatici, amici dei dirigenti della TV di Stato, tutto senza alcun controllo. Scrive Amadori in prima pagina di Libero: in Rai è scoppiata una regalopoli con contorno di veleni. Annescarla, siamo all'inizio del 2013, è stata una mail anonima nella quale viene denunciata la scarsa trasparenza del sistema degli omaggi aziendali. Un forziere di orecchini e gemelli d'oro di un'importante gioielleria di Roma, a due passi da Piazza di Spagna, orologi di pregio, ma anche foulard, libri, dischi, penne Montblanc, Montegrappa, portachiavi e cravatte, soprattutto della napoletana Marinella, tutti omaggi consegnati negli anni dall'azienda di Stato a ospiti e politici, ma non solo, un flusso di centinaia di migliaia di euro, almeno 300.000 euro l'anno, che sarebbe avvenuto senza lasciar traccia, ovvero senza che fossero indicati i beneficiari dei doni, i dirigenti in vena di regali. Un SUC che si scopre oggi non è mai stato regolamentato da alcun tipo di procedura interna. Un pozzo di San Patrizio in cui il direttore generale della RAI, Gubitosi, manager con fama di duro, ha deciso, e il metto in testa, di calarsi per vederci chiaro. Così a settembre il capo del personale della RAI, Luciano Flussi, ha consegnato a un ex funzionario della struttura Premi Omaggi una lettera di sospensione in via cautelativa del servizio in seguito all'indagine interna sui movimenti di magazzino dei cadeau aziendali. E così è partita questa vicenda. Roba di lusso, scrive Libero, con le foto, orecchini d'oro con la farfalla Rai, cravatte Marinella con la farfalla Rai, orologi Hamilton, orologi Jaeger-LeCoultre, penne Montblanc, Montegrappa, portachiavi di Marinella con farfalla Rai, foulard di marca, tutto coi nostri soldi in Rai regalano gioielli. Questo almeno è il titolo. Bisognerà vedere, certo, la denuncia di Libero è di quelle che ci fa un po' tenere le mani strette sul volante. E tenetele ben strette, perché oggi, cari italiani, la politica, o meglio, alcuni provvedimenti nel mondo della politica, regalano qualche notizia di quelle che, insomma, io che tengo il conto sul profilo Twitter Alino Milan, e siamo giunti ed è in corso la 23esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 23esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Oh, sembra un tormentone un po' stantio, eppure ogni giorno sui giornali notizie su questo. Allora, sulla riforma elettorale, l'onorevole Giachetti, che già fece uno sciopero della fame, ha iniziato lo sciopero della fame sul Porcellum, e leggo su Libero, su Repubblica, a un certo punto il PD si divide sulla riforma elettorale, e poi le province, eccolo qui l'altro conteggio, province per salvarle il governo le prova tutte, pagina 8 del Fatto Quotidiano, ma anche un'intera pagina del Messaggero. Province, torna in bilico l'abolizione. Allora, è una vicenda un po' complicata, come tante di queste cose in politica, anche controversa. C'è una denuncia da parte dell'opposizione riguardo a un emendamento a firma Gianluca Bressa del Partito Democratico, un emendamento che, secondo coloro che denunciano questo tentativo, all'interno del disegno di legge di approvazione delle leggi di contrasto al femminicidio, un provvedimento che deve essere approvato entro il 15 ottobre alla Camera, se no decade, è stato inserito un emendamento per prorogare i commissari prefettizi. Il Fatto con Paola Zanca denuncia: il blitz è stato fermato, ma potrebbero ritentare di inserire un emendamento simile nella legge di stabilità. Intanto, racconta Il Fatto, nel decreto sul femminicidio ci sono finiti requisiti per i fuochi d'artificio, le frodi informatiche, i rischi idrogeologici della montagna, i furti di rame, la bandiera e le uniformi della protezione civile, e poi le indistruttibili province. Questo è caro vezzo all'italiana, o vizio all'italiana, di mettere nei provvedimenti che sono in scadenza e quindi vanno approvati in fretta e furia, compaiono degli emendamenti che non c'entrano nulla coi provvedimenti in questione, ma si mettono lì fuori sacco per cercare di farli approvare, tanto nessuno se ne accorge, o comunque si sfrutta il fatto che bisogna approvare un provvedimento, se no decade entro pochi giorni. Allora, nel provvedimento sul femminicidio sono stati inseriti, ripeto, emendamenti su frodi informatiche, fuochi d'artificio, furti di rame, la bandiera e le uniformi della protezione civile, e poi la vicenda province. Ripeto, anche il Messaggero dedica una pagina a questo sul dossier province. Chissà se davvero è così. L'autore dell'emendamento, Gianluca Bressa del PD, per la verità si difende, dice: non è assolutamente vero. Ecco qui la complicazione della politica. E poi l'altro grande tema di cui ci siamo occupati: la riforma del finanziamento ai partiti. torna sui giornali, pagina 9 di Repubblica, fondi ai partiti, la riforma è incagliata. Enrico Letta ha promesso nuovamente, anche domenica scorsa da Fabio Fazio, di mettere il... era su Sky da Maria Latella, di fare un eventualmente un decreto legge, se non si sblocca la situazione, sarà il caso di approntarlo questo decreto legge, perché racconta Liana Milella su Repubblica pagina 9, il no degli alfaniani al finanziamento cedibile, il no su alcuni blocchi, su alcuni emendamenti, lo scontro tra PD e PDL, il concetto è che slitta il voto finale. I partiti chiamati a rivoluzionare l'attuale sistema basato sul finanziamento ai partiti stanno in realtà recalcitrando e facendo di tutto per far saltare la legge. Pagina 9 di Repubblica. A proposito di finanziamenti, voglio lasciare prima della pubblicità con questa notizia che trovate sulla stampa. Andrea Malaguti la scrive a pagina 6, riguarda un responsabile onorevole del Movimento 5 Stelle. Un nuovo processo nel Movimento 5 Stelle. L'accusa a un grillino è quella di aver tenuto fino a 70.000 euro della diaria. Il deputato 5 Stelle Ivan Catalano, divorato dall'antico dilemma, vale di più il mio onore o la serenità di chi mi sta a fianco? Ha scoperto la sindrome di Rudyard Kipling. Che cosa fa? Che cos'è che fa di un deputato un uomo figlio mio? Ci ha pensato un sacco Catalano. Ebbene, l'accusa è questo, è quella di essersi tenuto 70.000 euro in tasca e non aver restituito la diaria. Bugie? Verità? E soprattutto, nell'incertezza, i deputati 5 Stelle hanno chiesto spiegazioni. Se non le dà, è fuori. Ieri l'hanno incrociato in assemblea. Ivan, che ti prende? E lui ha detto: rendo tutto. Davvero rendi tutto? Sì, rendo tutto. Un comportamento più cortese di quello tenuto dai militanti in rete, che subito si sono scatenati. Vigliacco, venduto, opportunista, tenerezze di questo tipo. Insomma, c'è una nuova vicenda legata ai rimborsi, le diarie. In questo caso finisce un deputato 5 Stelle, Ivan Catalano, accusato dai suoi di non aver restituito 70.000 euro della diaria, come hanno fatto invece gli altri che l'hanno restituita. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Ed eccolo qua, sono le 7.33 minuti, quasi 7.34 minuti per la verità, e Alitalia è tornata a conquistare le prime pagine dei giornali, e tra l'altro c'è stato un vertice nella notte a Palazzo Chigi, il tema è sempre quello, stanno finendo i soldi e la situazione pare quella, come raccontato varie volte il Sole 24 Ore, di una sorta di disimpegno da parte dei soci attualmente in Alitalia, e la volontà è quella da parte del governo dunque di trovare un partner per rilanciare Alitalia, anche perché l'allarme lanciato dall'ENI è questo: sabato mettiamo uno stop al rifornimento di carburante per gli aerei Alitalia. Insomma, stanno finendo i soldi. Torna in campo, e per la verità era una vicenda che era già in campo con tutto il dibattito che forse ricorderete nel 2008, l'alleanza con Air France, che nel 2008 fu poi evitata grazie all'intervento di quelli che vennero definiti i patrioti per salvare l'italianità della compagnia di bandiera, ma adesso a questo punto bisogna trovare una soluzione. Allora all'Italia torna la soluzione Air France, così pagina 5 del Sole 24 Ore. Gianni Dragoni racconta: il governo in campo con l'ipotesi non solo azionaria, non è decollato, fa sapere il Sole, il piano di salvataggio pubblico dell'Alitalia cae con intervento di Ferrovie dello Stato. Questo tutto ieri è stato in campo come soluzione, una soluzione alla gravissima crisi finanziaria della compagnia aerea che ancora non c'è. Oggi si farà un nuovo tentativo in una riunione in mattinata a Palazzo Chigi, dopo quella di ieri sera è prevista anche una seduta del Consiglio Amministrazione di Alitalia nel pomeriggio, ma a questo punto è più vicina all'ipotesi che sia Air France KLM a assumere il controllo di Alitalia Italia nel prossimo aumento di capitale. Insomma, le FS non hanno partecipato al vertice col presidente Letta, il presidente di Alitalia, l'amministratore delegato, le due maggiori banche creditrici, vale a dire Unicredit e Intesa San Paolo, e anche gli altri dirigenti. C'erano anche i ministri dello sviluppo economico Zanonato, dei trasporti Lupi. L'amministratore delegato di Ferrovie Moretti avrebbe incontrato da solo Letta, ma prima del vertice con Alitalia. Non si sa cosa si sarebbero detti, ma si conoscono le condizioni che l'ingegnere riminese, confermato a capo delle Ferrovie, aveva posto già un anno fa per un'ipotetica integrazione tra treno e aereo: tagli a molte rotte nazionali, affidamento dei voli interni a una compagnia low cost, sviluppo dei voli internazionali e intercontinentali, mano libera nella gestione, no ad accollarsi i debiti. Su queste basi però pare che sia stato accantonato e si frena l'ipotesi Ferrovie dello Stato, come raccontano i vari giornali. Per esempio il Messaggero rilancia con Umberto Mancini a pagina 5 l'ipotesi Fintecna. In campo Fintecna, tensione su Alitalia, questo è il titolo a pagina 5, e racconta il Messaggero: è Fintecna, una delle società della Cassa Depositi e Prestiti, la nuova carta, ma non è l'unica che il governo vuol giocare per il salvataggio di Alitalia. Dunque il lungo vertice di Palazzo Chigi ha portato a un accantonamento del progetto con Ferrovie dello Stato. Questo almeno sembra prima del prossimo round, che sarà questa mattina. Tra l'altro, il Corriere della Sera fa il consueto retroscena anche sull'economia. Antonella Baccaro a pagina 3, il Premier: prima paghino tutti i soci, questo è il titolo. A ieri sera un'unica cosa appariva certa ai partecipanti al vertice all'Italia, tutti fuggiti a telefoni spenti da Palazzo Chigi. Il governo è ufficialmente impegnato nel tentativo di trovare un veicolo pubblico per evitare il fallimento della compagnia e favorire una fusione dignitosa con Air France KLM. Ma questo soggetto o più soggetti al momento non c'è. Lo schema prevederebbe un suo ingresso nel capitale della compagnia, in pratica una parziale rinazionalizzazione. Ma in questo retroscena racconta il Corriere che a un certo punto Letta, finito il vertice, si è chiuso con il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni per esaminare i candidati all'ingresso pubblico. Sono tornati in campo la Cassa Depositi e Prestiti, Fintecna, F2I. Non si esclude niente, ma Letta avrebbe congedato tutti con il caldo invito: non faremo nulla se non porterete a casa l'ingresso, impegno di tutti i soci, compresa Air France KLM. Tra l'altro c'è anche l'impegno nell'incontro e nella missione, nel viaggio di missione di sistema dell'Italia che il governo insieme a Confindustria ha organizzato negli Emirati Arabi Uniti. Si è manifestata anche l'interesse da parte del potentissimo ministro dell'economia degli Emirati Arabi Uniti, vale a dire il sultano Bin Said Al Mansouri, che tra l'altro in qualche scambio di parere con il quotidiano nazionale Alessandro Farrugia dice: la compagnia piace agli arabi, piace agli arabi, gli Emirati sono parecchio interessati, ma prima dovete ristrutturare in modo adeguato all'Italia. Come dire, prima sistemate i conti e poi gli arabi. Etihad, il fondo Etihad e la compagnia Etihad è molto soddisfatta del rapporto con gli italiani e potrebbe anche impegnarsi in Alitalia. Insomma, mi sa che tornerà il dibattito, italianità non italianità, efficienza non efficienza. Come, per carità, cosa dobbiamo dire, cari italiani, del dibattito che si è riaperto sull'IMU? Era una delle cose che, insomma, dopo essercela portata avanti tutta l'estate, si pensava di aver archiviato almeno questo dossier, almeno una cosa si era decisa con le diatribe, con le problematiche, con le discussioni. Invece tutto riaperto. Caos IMU sulla prima rata, duello PD-PDL. Isidoro Trovato sul Corriere della Sera racconta che un emendamento ha fatto riprendere la scena all'IMU, tornata protagonista incontrastata della ribalta parlamentare. Un emendamento del PD ha riacceso le polveri. Il detonatore è un emendamento presentato da una parte del PD alla Commissione Bilancio della Camera, che propone di ridurre la platea dei cittadini esentati dal pagamento della prima rata, fissando un tetto di rendita catastale pari a 750 euro. E tra l'altro, con i soldi incassati, propongono gli esponenti del PD, si potrebbe bloccare l'aumento dell'IVA. Ma come, l'IVA è già aumentato, è già legge, lo ha detto il ministro Saccomanni, è già legge, non si può tornare indietro. Non si capisce. Ma comunque anche questo emendamento non si capisce bene, forse verrà ritirato oggi. La mediazione di Franceschini per il ritiro, oggi ci sarà una riunione d'emergenza della cabina di regia Palazzo Chigi per trovare i fondi necessari, e può darsi che questo emendamento dell'IMU messo possa essere già tolto oggi. Insomma, è bene buttarla in ironia, come fa Iena nel suo graffio a pagina 3 della Stampa: neomarxismo, ricchi di tutta Italia, unitevi. È una vicenda di quelle che va e viene, si riapre, si richiude. Io voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Buongiorno Alessandro. È un'Italia in cui è così, no? Un giorno che pensavamo l'IMU fosse chiusa, archiviata nel cassetto con tutto il dibattito, ecco che si riapre il dossier. E sì, vabbè. C'è sempre un po' di andirivieni, diciamo, sul superamento delle tasse. Un pochino. E ovviamente non fa eccezione. Ovviamente, come detto, ne parla il Sole 24 Ore, che parla anche di che cosa, Mauro? Parla anche di altre cose. Guarda, vorrei concentrarmi su cose un po' più stabili, se mi permetti, perché oggi diamo anche questa guida, questo quaderno dell'esperto risponde con una serie di domande sul condominio. Lì le cose sono più stabili, abbiamo selezionato le domande più frequenti, in gergo le FAQ, FAQ, e le abbiamo riunite in un quaderno che si trova in vendita con il Sole 24 Ore di oggi. Poi, curiosando qua e là tra le pagine, vi segnalo il bonus mobili, quindi uno sconto fiscale che c'è, non è in discussione, si può prendere l'aiuto fiscale per chi compra mobili e che va associato alle ristrutturazioni. Bene, spieghiamo nelle pagine interne, lo spiegano Cristiano Dell'Oste, come si fa anche con una piccola spesa di ristrutturazione a prendersi anche il bonus mobili. E poi naturalmente le pensioni, mi raccomando, chi ha dei dubbi sulle pensioni può scriverci, abbiamo attivato un forum, oggi ci sono anche le prime risposte pubblicate sul quotidiano, ma ne aspettiamo ovviamente molte altre. Io ne ho uno grandissimo di dubbio: la prenderò la pensione oppure no? Questa è qui diciamo che la tua giovane età non gioca a tuo favore, il tempo non è dalla tua parte, per parafrasare i Rolling Stones. Ma certo, ma auguriamoci di morire prima, almeno per quel che mi riguarda. E poi, Mauro, c'è qualcos'altro da segnalare per chiudere? Guarda, ti vorrei segnalare da ultimo una cosa un po' più particolare, cioè il trattamento della Tobin Tax in contabilità. Capisco che qui andiamo veramente per i palati fini, però per i commercialisti era un dubbio. Lo spieghiamo oggi sul Sole 24 Ore, come va imputato in contabilità questa nuova tassa. Sai che di nuove tasse, come dire, non si sente il bisogno, però c'è sempre la tendenza a produrle, anche questa sulle transazioni finanziarie, adesso bisogna in qualche modo farla uscire nei bilanci, ecco, ma come, dove va scritta, perché, come si tratta, tutte queste domande che ovviamente hanno tolto il sonno più di un professionista, cerchiamo di dare una risposta oggi, una prima risposta. Una risposta oggi, concreta. Allora, grazie a Mauro Meazza, insomma, commercialisti di tutta Italia, unitevi a leggere il Sole 24 Ore. E ci ritroviamo ovviamente domani. Intanto, che dire, una tassa c'è, l'IVA, ebbene, è stato certificato con dati che sono stati persi 3,7 miliardi dall'inizio dell'anno rispetto all'anno precedente, cioè il gettito da IVA è diminuito di 3,7 miliardi, è crollato il gettito, in totale incassati quasi 270 miliardi, è un calo dello 0,3% rispetto all'anno precedente, nei primi 8 mesi dell'anno. Ma dai, ma chissà perché? Chissà perché. L'altro grande tema, la tematica sul lavoro, è il taglio al cuneo fiscale. Il taglio al cuneo fiscale con sgravi contributivi, sono sempre sul Sole 24 Ore con Giorgio Pogliotti a pagina 3. È un tema, un dossier che racconta Repubblica con Roberto Petrini a pagina 3. È il piano del governo che prevede mini sgravi di 115 euro a dipendente, ma sono disponibili solo 4 miliardi. Insomma, nella legge di stabilità i conti sono da tenere sotto controllo, i soldi sono pochi, chissà se si riusciranno a ridurre le tasse sul lavoro per cercare di dare anche un po' più di soldi ai lavoratori in busta paga. In tutto questo la politica cosa fa? Dopo le informazioni sul traffico, ovviamente la politica è divisa, soprattutto il PDL, gran dibattito, congresso sì, congresso no, Falchi, Colombe, Pitonesse, e quant'altro devono capire che fare. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Già, allora, il Popolo della Libertà ancora si interroga, il congresso va fatto oppure no? Fitto è l'uomo che più si sta muovendo in chiave anti-Alfano, PDL, la mossa dei falchi contro Alfano, subito le primarie nel nuovo statuto, Fitto pronto a sfidare il segretario, anche se tiene banco un po' la questione servizi sociali di Silvio Berlusconi. Paola Di Caro racconta pagina 9, Berlusconi sonda i big per ricompattare il partito, servizi sociali in arrivo, scelta fra le tre associazioni. Pare che sia destinato soprattutto a chiedere l'affidamento al CEIS di Don Picchi, comunità di recupero di tossicodipendenti, ma anche ieri si è fatto vivo Mario Capanna, si è fatto vivo anche Don Mazzi in un modo che non è piaciuto per niente all'entourage dell'ex premier Silvio Berlusconi. Pare che ci sia anche la scelta sul Partito Radicale, l'associazione magari Nessuno Tocchi Caino, che si occupa di problemi legati alla giustizia. Qua ieri ai nostri microfoni anche Vladimir Luxuri ha detto venga l'arcigay, insomma il tema è questo. Entro il 15, quindi martedì prossimo, dovrà indicare o fare la richiesta per chiedere di scontare la sua pena in affidamento ai servizi sociali anziché agli arresti domiciliari. Se la richiesta non arriverà nei termini previsti, dunque nei prossimi giorni scatteranno automaticamente gli arresti nella casa romana dove ha deciso di spostare la residenza, dunque questa sarà la settimana per chiedere questo. E vabbè, intanto noi parleremo di Lampedusa, vi ricordo alle 8:15, minuto più minuto meno, più 8:17, avremo il ministro Cécile Kyenge ai nostri microfoni, raccontano i giornali la disperazione dei 1000 tra materassi a terra e sacchi di plastica, come racconta il Fatto Quotidiano con Enrico Fierro a pagina 3, mentre Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, pagina 19, intervista la Presidente della Camera, Laura Boldrini, interventi nei paesi d'origine e poi centri di accoglienza dell'Unione Europea. Dice Boldrini, regole da aggiornare, il reato di clandestinità non ferma gli sbarchi e quindi è un reato di fatto inutile. E qual è la soluzione? Partirei dai paesi d'origine, dice Laura Boldrini. Dobbiamo porci il problema del perché queste persone fuggono. Bisogna sapere che le famiglie eritree si rovinano per mandare via i loro figli pur di sottrarli a un regime che li obbliga a fare i soldati a vita, che i somali non hanno pace, così come i siriani e gli afghani. Insomma, sto dicendo che bisognerebbe intervenire sulle cause che inducono alla fuga. Così Laura Boldrini, presidente della Camera, intervistata dal Corriere della Sera. Voglio ricordare solo che c'è anche la notizia riguardante Cecchi Gori. Vittorio Cecchi Gori è stato condannato in via definitiva a 7 anni di carcere. Il titolo è un po' ovunque, il Messaggero, bancarotta, Cecchi Gori condannato a 7 anni, così la Stampa, Cecchi Gori terza condanna, altri 7 anni per bancarotta, però non capisco dove si trovi. Giudici, dissipato un patrimonio di 600 milioni della Finmavi. Alessia Meloni, per esempio, sulla Stampa, nuova condanna in primo grado, però per il 71enne imprenditore fiorentino Vittorio Cecchi Gori. Giudici di Roma gli hanno inflitto 7 anni per il fallimento della società Finmavi S.P.A. Dal suo entourage, dicono, è un'ennesima botta dura. Condannato a 7 anni, l'ultimo ciak per Cecchi Gori, anche pagina 13 di Libero. Vabbè, c'è la vicenda, 2 pagine su Mada Kabobo, ricordate colui che ha ucciso 3 persone con un piccone a Milano? Allora, ormai è certo, verrà processato, dunque è stato giudicato capace di intendere e volere. Mi ha molto colpito ciò che sul Fatto Quotidiano Marinella Rossi scrive nell'articolo a pagina 14, in realtà è il Quotidiano Nazionale, non il Fatto Quotidiano, sul Quotidiano Nazionale. Cosa voleva? Trovare un letto, un pasto caldo, qualcuno che rispondesse alle sue domande. Questo in pratica hanno detto gli psichiatri, cioè una persona che dice «chiedevo l'elemosina a tutti ma nessuno mi dava retta, anzi giravano la testa. Per un letto e un pasto caldo era pronto a finire in cella per trovare un rifugio, per trovare un tetto, per trovare qualcuno che desse una risposta alle sue domande, ma da Kabobo ha perso la testa e ha compiuto questo gesto. Verrà processato. Va bene, siamo al momento finale, il momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Torno sulla questione della politica perché insomma veramente non se ne può più. Oggi vince il Messaggero con Antonio Calitri, un'intera pagina, il PDL con la mappa della guerra interna. Ma certo, ci mancava anche la mappa della guerra interna. Uno pensava di poter dire: ma chi se ne frega intanto di questi partiti che si dividono, si riprendono, si ridividono, i congressi, il PD, il PDL. E invece qui c'è la mappa della guerra interna in Lombardia. Come vanno? Chi vincono? I lealisti o gli altri? Il peso dei Cellini. In Emilia-Romagna per ora è pareggio. In Piemonte i lealisti sono in rotta. E in Abruzzo, nelle Marche, in Lazio. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega di queste cose? E invece se ne parla a iosa. Si sprecano fiumi d'inchiostro senza sapere, anche cari amici del Messaggero, che la carta costa. 24 mattino. Siamo qui, le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora vogliamo tornare a parlare della tragedia di Lampedusa, il tema su cui vogliamo tornare perché continua il recupero dei cadaveri, questo immane naufragio che c'è stato la settimana scorsa. E vogliamo iniziare questo discorso, lo facciamo con la ministra all'integrazione Cécile Kyenge, che è con noi. La ringrazio, ministro, grazie per essere con noi all'inizio di questa trasmissione. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, lei è stata a Lampedusa, le cronache raccontano di un'isola dove ci sono i sopravvissuti ammassati che si devono dividere anche in 50 un bagno. Ecco, è vero che è un problema europeo, ma il governo italiano cosa sta facendo per fronteggiare questa situazione concreta adesso di disagio dei sopravvissuti? Sì, esattamente. La situazione è critica e il nostro compito in questo momento è anche questo, per quanto riguarda il governo italiano, anche quella di far fronte a questa emergenza, che è anche quella dell'accoglienza sull'isola, quella di riuscire a dare anche delle soluzioni concrete. Quindi noi in questo momento siamo concentrati anche su esattamente questo punto. La situazione che ho rilevato giù sull'isola nel centro di accoglienza è una situazione che richiede comunque anche uno smistamento abbastanza veloce e purtroppo il continuo arrivo anche delle persone ha messo un po' in difficoltà tutto il sistema di ridistribuzione delle persone e quindi insomma noi stiamo lavorando molto su questo punto. Cioè di distribuirli, però al momento si vedono purtroppo queste scene di persone ammassate. Cioè, come mai è così difficile operare in velocità su questo punto? Ma ci sono molti problemi anche burocratici a cui dobbiamo far fronte. Il primo è anche quello del riconoscimento e dell'identificazione delle persone. Noi abbiamo l'obbligo di identificare le persone anche per riuscire a darne anche una sistemazione sul territorio. Le difficoltà a cui facciamo fronte sono legate purtroppo anche a quella che è la nostra posizione per quanto riguarda anche la situazione di profughi richiedenti asilo all'interno dell'Europa, dove noi stiamo chiedendo con forza che questa situazione possa essere gestita dall'Europa. La maggior parte delle persone che arrivano sull'isola non arrivano sull'isola per rimanere in Italia, molti sono passano dall'Italia come paese di transito per poter raggiungere familiari in altre zone, in altri luoghi, perché fuggono da questi luoghi di conflitti, di guerra, tragedia. Tra l'altro, ministra, mi scusi, i sopravvissuti, ricordiamolo, sono anche tutti indagati per il reato di clandestinità. Lei ha già detto e conferma, andrebbe abolito, per quella che è la sua posizione personale, questo reato? Ma io credo che in questo momento, cioè che il momento che stiamo attraversando è quello prima di tutto di fare chiarezza anche su tutta la situazione attuale. Le persone che stanno arrivando fuggono da situazioni di guerra, di conflitto e si chiamano profughi. Noi abbiamo bisogno di lavorare molto sull'asilo, quindi si è fatta molta confusione in questi ultimi tempi tra i migranti economici e persone che fuggono da situazioni di guerra tragedia che sono già protetti da convenzione internazionale e quindi dovrebbe essere protetti anche da legge, la convenzione di Ginevra, anche da legge che proteggono le persone che si chiamano profughi. Quindi c'è molto bisogno di far capire anche fuori la distinzione anche tra persone che hanno proprio diritto a una protezione diversa che riguarda i profughi e persone che sono emigranti economici, che sono quelli su cui possiamo fare un ragionamento, che è un ragionamento appunto diverso e che deve sottostare anche a leggi che riguardano il nome sull'immigrazione. E se non riusciamo a fare questa distinzione, la confusione è tale che appunto il reato di clandestinità arriva anche a chi fugge dalla guerra. Senta, lei cioè non bisognerebbe mai strumentalizzare questa tragedia, purtroppo le strumentalizzazioni se ne sono viste, però le chiedo anche polemicamente, non è una strumentalizzazione anche dire subito dopo la tragedia cambiamo la legge Bossi-Fini? Ma io credo che in questo momento la situazione è quella che ho spiegato pochi minuti fa. E lavorare sull'asilo, cercare di fare una distinzione tra migranti economici, profughi, richiedenti asilo, richiede una buona conoscenza di tutto il fenomeno migratorio, richiede una buona conoscenza di quelle che sono anche le norme che regolano chi arriva sul nostro territorio. E quindi fare una distinzione su questa evita anche di riuscire a cadere in quell'errore che ho appena accennato di persone che fuggono da guerra, che si chiamano profughi, che sono già protetti da convenzione internazionale, che devono sottostare ad altre leggi, che sono sottoposte invece a leggi che riguardano l'immigrazione. Ma infatti è per quello che le chiedo, cioè cosa c'entra tirare in ballo la Bossi-Fini per una vicenda del genere? È proprio per le conseguenze che ha avuto anche su questa vicenda, far arrivare il reato di clandestinità a persone che fuggono dalla guerra, credo che sia una confusione nel capire di cosa stiamo parlando. Senta, il Nobel a Lampedusa, perché lei è favorevole? Non è un simbolo importante, per carità, ma un simbolo vuoto, cioè molti dicono più fatti concreti piuttosto che il Nobel. Io sono sempre dell'idea che ogni percorso positivo che dia, che si dia, l'immagine a Lampedusa è sempre un passo, una cosa non esclude l'altro, il Nobel è una cosa, poi a fianco a questa sicuramente dovranno seguire anche fatti concreti. Io dovrei puntualizzare che le difficoltà che sta affrontando l'isola, che non riguardano soltanto l'accoglienza dei migranti, ma riguarda anche l'equilibrio dell'isola, l'equilibrio economico dell'isola, perché l'arrivo delle persone che sono tanti e quindi devono essere sicuramente anche ridistribuiti giustamente anche su altre zone dell'Italia, mette in difficoltà tutto un sistema di economia, di rifornimento anche idrico, cioè l'isola è piccola, per cui a fianco al Nobel noi dovremmo sicuramente rafforzare anche tutta la parte che riguarda gli isolani, l'economia dell'isola, ma una cosa non esclude l'altro. E questo domani magari sarà anche un tema affrontato con Barroso. Ancora due domande, Ministra, intanto la ringrazio. La prima è questa. Cosa risponde a chi la definisce una buonista per definizione, cioè una di quelle che dice cari migranti, venite qui che c'è posto? Ma credo che è proprio questa la strumentalizzazione di tutto, cioè lei parlava prima di strumentalizzare le cose, penso che tutte queste polemiche siano anche strumentalizzazione. Noi dovremmo essere lucidi, concreti e pensare a dare delle soluzioni e soprattutto quella di parlare di legalità, soprattutto quella di parlare anche di lotta contro la criminalità organizzata. Noi in questo momento stiamo parlando di persone che sono vittime di un fenomeno, il fenomeno della tratta. Noi dovremmo fare non una lotta a chi è in difficoltà dentro il mare, dovremmo fare la lotta alla criminalità organizzata che si nutre proprio di tutto questo fenomeno di persone che fuggono, oppure anche di persone che sono in difficoltà, per riuscire ad aumentare ulteriormente il loro mercato. Quindi lei lei non si definisce buonista, lei respinge questa accusa, diciamo, non sono una buonista. Ma non dipende dai punti di vista, io non scendo nemmeno a queste discussioni, cioè io sono abbastanza concreta, quindi non scendo proprio a quel livello, perché chi vuole portare la discussione a questo livello è una persona sicuramente che vuole banalizzare tutto un fenomeno migratorio che è complesso e che va studiato, rivisto e guardato in tutti i suoi punti. La lotta alla criminalità organizzata è un punto, cioè, e va fatta anche in questa, perché bisogna spezzare quella catena di trafficanti che che si stanno nutrendo proprio della tragedia degli altri. L'ultima... Un conto anche quello di dare una risposta a chi fugge dalla guerra, e credo che qui c'è poco da dire buonista. Una persona che ha bisogno di aiuto in mezzo al mare, una persona che fugge dalla guerra, ci sono delle leggi che ci obbligano comunque a dare sostegno, a dare aiuto, e anche la legge, rispondere alla legge del mare, quella di soccorrere una persona in difficoltà. Questo certamente. Ministra, l'ultima domanda è questa: lei, dopo che è stata accusata da esponenti della Lega di essere mandante morale di questa vicenda, ha detto questo è il punto di non ritorno con la Lega. Che cosa significa concretamente? Cioè non scende più a dibattito con i leghisti? Mi faccia capire. Ma diciamo che in questo momento sento un gran rumore, ma non ho, so di chi stiamo parlando. In che senso? Non sa di chi stai parlando, cioè non vuole parlare della Lega, non vuole più confrontarsi con la Lega. Un conto sono le polemiche, un conto è un confronto. E lei vede solo polemiche. Va bene, intanto la ringrazio per essere stata con noi, ministra. Grazie. Ovviamente a Cécile Kyenge, ministra per l'integrazione. Che dire, andiamo, abbastanza anche esplicativa nella risposta. Andiamo alla pubblicità e poi tra 5 minuti vorrei ripartire da qui. Cercheremo di raccontare allora le polemiche che ci sono. Avremo con noi per esempio anche il procuratore capo di Agrigento, Renato Di Natale. Perché? Perché appunto, come detto, molti, quasi tutti anzi, i sopravvissuti sono stati indagati, in questo momento sono sotto indagine, è stato aperto un fascicolo su di loro per il reato, l'ipotesi di reato di clandestinità. So che questa cosa ha suscitato anche proteste, persone che hanno telefonato alla procura a dire ma come? Allora cercheremo di capire dal procuratore Renato Di Natale se davvero questo reato di clandestinità è un qualcosa anche di efficace, qualcosa che può essere considerato un deterrente. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:36 minuti dopo aver sentito la ministra Cécile Kyenge sul tema Lampedusa, immigrazione, un tema molto complesso. Vorrei sentire qualche ascoltatore prima di salutare i miei nuovi ospiti. Simone dalla provincia di Brescia, buongiorno Simone. Buongiorno, buongiorno. Dica. Niente, alla ministra Kyenge, dopo quello che è successo a Lampedusa, la prima cosa che dice è l'abolizione della Bossi-Fini. La modifica. O l'eliminazione, non so, comunque la modifica. Cioè, io penso che qualsiasi legge sulle immigrazioni ci fosse stata, questa tragedia sarebbe successa comunque. Non vedo che collegamento ha, perché la legge vale per le persone che accedono al nostro... sarebbe un momento dopo, ma lì può essere... Lei non vede il nesso del parlare, un po' come ho chiesto al ministro, cioè se non sia anche questa, tra virgolette, una strumentalizzazione, cioè parlare della legge nel momento in cui succede un evento del genere. La ringrazio Simone, vorrei andare a Parma da Gianmarco, buongiorno. Buongiorno. E io avrei voluto chiedere alla signora ministra con che logica lei sta andando verso la Ius Solis quando tutti gli altri paesi in Europa, come l'Irlanda che l'ha abolito anni fa per evitare il turismo di cittadinanza, e pochi giorni fa la Gran Bretagna ha annunciato tagli verso la sanità gratuita per i clandestini, e invece noi andiamo dall'altra parte. Quindi avrei voluto chiedere il perché. Grazie Gianmarco, adesso non è qui a rispondere al ministro. Il tema dello Ius Solis, sì certo, è legato al tema dell'immigrazione, è un tema un po' diverso, vuole semmai accelerare, cioè quello che si chiama Ius Solis temperato, no? Accelerare quel processo che permette agli stranieri di ottenere la cittadinanza. Comunque la ringrazio Gianmarco. Io vorrei salutare l'onorevole Gianluca Pini della Lega Nord, buongiorno onorevole Pini, eccoci qua. Buongiorno. Così come voglio salutare il procuratore capo di Agrigento, dal quale voglio partire, che ringrazio, Renato Di Natale, buongiorno procuratore. Buongiorno. Buongiorno. Perché la notizia che abbiamo letto sui giornali, lei ci confermerà o meno, è che tutte le persone sopravvissute a questa tragedia sono iscritte d'ufficio con un fascicolo per l'ipotesi di reato di immigrazione clandestina. È così oppure no, procuratore? Sì, è esattamente così, ma andrei un attimo a ritroso, non solo le persone che sono state oggetto di questo evento di qualche giorno addietro, ma è dal 2009, allorché è stato introdotto l'articolo 10 bis della legge numero 94, ogni soggetto che entra nel territorio italiano senza permesso di soggiorno, titolo equivalente, risponde di questo reato contravvenzionale. Un'ipotesi di reato. Ci può chiarire anche il fatto se è vero che i pescatori o le persone che eventualmente aiutassero i migranti che sono in mare in quel momento rischiano una uguale incriminazione, cioè di favoreggiamento al reato di immigrazione clandestina? Assolutamente no, è una notizia non vera, perché i pescherecci possono raccogliere gli immigrati, ciò è previsto dalla norma del codice della navigazione che sanziona l'omissione di soccorso in chi si trovi in situazione di bisogno. Quindi è addirittura il contrario, procuratore, non intervenire è un reato. Perfetto, non intervenire è un reato previsto dall'articolo 1158 del codice della navigazione. Questo farebbe cadere anche quello che si è letto sui giornali di alcune persone che avrebbero addirittura avrebbero fatto finta di non vedere questa tragedia. A lei risulta? Allo Stato a me non risulta dal punto di vista processuale. Se ci saranno forniti elementi concreti in tal senso, vedremo di operare in questa direzione. Senta, procuratore, questo reato, ovviamente, poi i fascicoli come procedono? In genere vengono archiviati? Mi faccia anche capire se per la Procura di Agrigento è un problema di gestione di tutti questi fascicoli. È un problema enorme, perché per l'anno scorso, per esempio, abbiamo iscritto 10.000 persone nel registro degli indagati solo per articolo 10 bis. E l'immigrato che entra nel territorio illegalmente dello Stato può presentare domande di protezione internazionale, allora in tal caso il procedimento è sospeso. Se ciò non accade, la Procura di Agrigento è solita, salvo eccezioni, richiedere l'archiviazione di questi procedimenti, sì. Perché ritiene che si tratti di episodi in cui ci sia la tenuità del fatto rispetto all'interesse della collettività, che il danno che è stato provocato, il pericolo che è stato provocato alla collettività è esiguo, e quindi nonché, quando si tratta della prima volta in cui il soggetto entra in Italia, che sia occasionale e quindi il suo grado di colpevolezza non giustifichi l'esercizio dell'azione penale. Procuratore, è vero che ci sono arrivate diverse telefonate alla procura di persone che si lamentano, come dire, ma com'è possibile che di fronte a persone che hanno la morte negli occhi voi aprite un fascicolo? È vera questa notizia? Cioè si sono lamentati? Esattamente vero. E lei che risponde? Io rispondo che devo osservare la legge. Se il Parlamento ha creato la legge nel 2009, la legge che prevede il reato di immigrazione clandestina, io ho l'obbligo di scrivere i soggetti nel registro delle notizie di reato. Comportandomi poi di conseguenza, come le ho accennato, come ha spiegato, richiedendo l'archiviazione. Però comunque è lavoro, fascicoli, magistrati che sono occupati. Onorevole Pini della Lega, vogliamo partire da qui, poi le farò sentire quello che ha detto il ministro Chieng, che è stata molto chiara, visto che lei è quello che ha detto, è stato il primo a dire ha la responsabilità morale, il ministro Chieng insieme a Laura Boldrini, di questa vicenda. Non sarebbe il caso di cancellarlo questo reato di clandestinità, onorevole Pini? Cioè, cosa comporta? Il procuratore ci sta dicendo che comporta intanto aprire migliaia di fascicoli che intasano poi le scrivanie dei magistrati. No, abolirlo sarebbe una follia. Faccio presente tutto ciò che ha detto il procuratore, è assolutamente vero, anche poi della evoluzione, diciamo così, tecnica di quelli che sono i fascicoli. Faccio presente però che quando la legge Bossi-Fini veniva applicata alla lettera, i fascicoli alla Procura di Agrigento aperti per immigrazione clandestina erano meno di un decimo rispetto a quelli che si aprono in questi periodi in cui c'è qualcuno, in primis la signora Chieng e la signora Boldrini, che non fanno altro che con le loro dichiarazioni in qualche modo incentivare questi viaggi della morte. Ora, noi ci dobbiamo chiedere, al di là di quelli che possono essere le modifiche normative, essendo le leggi fatte dagli uomini non sono perfette, sono, però sono sicuramente perfettibili, però può essere affrontato in maniera non ipocrita, non demagogica e lasciando fuori politicamente corretto, altrimenti continueremo a avere dei morti. Però, allora, scusi, adesso l'obiettivo è un altro, secondo me, adesso, non solo adesso, da sempre. L'obiettivo è... La linea è caduta. No, ma vorrei ripartire da qui dopo le informazioni sul traffico, perché l'onorevole Pini ha ribadito incentivano questi viaggi della morte con le loro dichiarazioni, la ministra Kyenge e la presidente della Camera Laura Boldrini. Insomma, non recede da questa posizione, che è una posizione molto ferma, molto forte, secondo alcuni anche molto grave come affermazioni. Ripartiamo da qui quando ripristiniamo la linea tra un attimo dopo il traffico. Allora, le 8 e 46 minuti, anzi 47 minuti, onorevole Pini, abbiamo ripristinato la linea. Senta, ma lei ribadisce, incentivano con le loro dichiarazioni questi viaggi della morte, però sono frasi molto molto forti, cioè se a lei imputassero una responsabilità morale di una tragedia del genere, come si sentirebbe? Beh, se avessi detto le cose che hanno detto queste due signore, probabilmente mi sentirei colpevole in qualche modo. Ma cosa hanno detto di aver agevolato così grave? Ma guardi, io guardo i numeri, ok? Guardiamo i numeri, facciamo così, così evitiamo qualsiasi tipo di strumentalizzazione o di falso buonismo o di ipocrisia. Da quando il ministro Kyenge ha iniziato a parlare di Ius Soli, e sentivo prima giustamente qualche radioascoltatore che diceva come la tendenza in tutta Europa è inversa, noi chiaramente, pur essendo più esposti di altri a una sorta di immigrazione clandestina, diamo questo segnale. Io guardo i numeri, da quando sono iniziati questi messaggi verso l'esterno, sono ripresi e in maniera pesante gli sbarchi attraverso appunto queste carrette della morte, e il numero di bambini, il numero di donne e donne incinte all'interno di sopra queste carrette è aumentato in maniera esponenziale. Attenzione, perché si fa sempre un errore madornale nel valutare poi chi sono queste persone. Su 33.000 persone sbarcate negli ultimi 12-13 mesi, sa quanti hanno poi avuto effettivamente il diritto a una protezione internazionale? Quindi 2.200, fonte del Ministero dell'Interno. Ma forse le altre Il che vuol dire che oltre il 90% di queste persone non sono rifugiati, non scappano da guerre, non vengono da zone però di crisi. Onorevole Pini, sa che le richieste a volte vanno avanti un anno, due anni, quindi dire che sono in corso queste richieste di, allora, dei richiedenti. Perfetto, quelle in corso se ne aggiungono altre 1.500, quindi arriviamo a un 12-13%. Facciamo una media, il 90% delle persone che salgono su queste carrette della morte non sono rifugiati, non sono persone che hanno diritto all'asilo politico. Ora, ripeto, l'obiettivo secondo me comune di tutti deve essere evitare che ci siano questi morti. Stavo dicendo prima che cadesse la linea, la persona più saggia che ha parlato probabilmente è stato il presidente Napolitano, quando ha detto bisogna fermare queste cose qui e bisogna ripristinare i presidi davanti alle coste di partenza, cosa che noi avevamo fatto nel 2009 con il ministro Maroni. I respingimenti. No, attenzione, non erano solo respingimenti, perché in quel caso lì, guardi, i numeri più o meno poi alla fine coincidono, in quel caso lì, in quell'anno dove noi abbiamo fatto sì i respingimenti, ma abbiamo anche valutato poi le richieste di asilo e le richieste di rifugiati, perfetto, sono stati concessi circa 3.000 permessi per asilo politico e rifugiati. Però, c'è stata però anche evitando i morti. Sì, ma certo, ma c'è stata anche una situazione di guerre. Però io le voglio fare sentire questo. Lei l'ha sentita la Kyenge? È avvenuta dopo. L'ha sentita la Kyenge prima da noi? Gliela faccio Non l'ho sentita, ma faccio sentire io. Siccome le ho fatto una domanda sul rapporto con la Lega, ha detto non ci sarà più un rapporto, il punto di non ritorno dopo le sue dichiarazioni. Sentiamo la Kyenge. Senta la Kyenge. Ministra, l'ultima domanda è questa. Lei, dopo che è stata accusata da esponenti della Lega di essere mandante morale di questa vicenda, ha detto questo è il punto di non ritorno con la Lega. Che cosa significa concretamente? Cioè non scende più a dibattito con i leghisti? Mi faccia capire. Ma diciamo che in questo momento sento un gran rumore, ma non ho... so di chi stiamo parlando. In che senso? Non sa di chi stai parlando, cioè non vuole parlare della Lega, non vuole più confrontarsi con la Lega. Un conto sono le polemiche, un conto è un confronto. Insomma, Pini, a parte non so di chi stiamo parlando. Guardi, io sono stato il primo a chiedere un confronto, a offrirgli un confronto, a offrirgli un palcoscenico alla festa della Lega a Cervia. Sì, però poi lei ha fatto un'accusa grave. Lei ha fatto un'accusa grave. Responsabile morale dei morti è grave. Mi lascia finire, però cortesemente rispondo a questa signora. Allora, lei si è rifiutata di un confronto più e più volte, nonostante l'invito. Seconda cosa, dice sempre e solo le stesse banalità. In 5-6 mesi di governo non ha fatto assolutamente nulla per andare verso quello che dovrebbe essere la funzione del suo ministero, cioè l'integrazione. Anzi, durante il suo mandato finora sono aumentati gli sbarchi, sono aumentati i morti, sono aumentate le tensioni sociali fra immigrati e cittadini italiani. Ma lei continua quindi a legare le due cose. Questa signora qui è assolutamente fallimentare e addirittura pericolosa, non solo, ma è stata anche smentita durante l'ultimo intervento sulla questione Lampedusa in aula dal suo stesso governo, perché Alfano è venuto in aula a riferire sulla questione di Lampedusa e ha detto esattamente il contrario. Vabbè, comunque, lei diciamo non recede di un millimetro sul legame. Aspetti, ribadisco una questione, chiudo, una questione, non solo confermo tutto, è arrivato anche il momento da parte, secondo me, del governo di rimuoverla, perché se la linea del governo è quella che Alfano è venuto a riferire in aula, la signora Kyenge è su una linea totalmente diversa e quindi qualcuno ci deve dire il tema dell'immigrazione e soprattutto il tema di evitare nuove tragedie, dove poi si specula per cercare di cambiare una legge, perché questo è il dato di fatto. Dice non è in linea col governo, insomma venga rimosso. Aspetti, mi faccia sentire ancora un attimo il procuratore capo di Agrigento, Renato Di Natale. Procuratore, non la faccio entrare ovviamente in polemiche politiche, non è il suo lavoro. Le chiedo però, visto che si parla dell'emergenza di Lampedusa anche dal punto di vista tecnico-pratico, ecco, la procura di Agrigento ha delle emergenze legate anche alla posizione geografica in cui siete per gestire questa situazione, concrete e rivendicazioni anche da fare? Evidentemente gli organici dell'ufficio non sono sicuramente adeguati a quelle che sono le esigenze connesse alla molteplicità dei reati che nascono non solo dal fatto che l'immigrato arrivi in Italia e quindi dalla consumazione di questo reato contravvenzionale, ma tutti quanti sono gli altri reati conseguenziali. Faccio l'esempio più classico, l'identificazione di coloro che subiscono l'immigrazione clandestina e sono voluti, è un'attività continua. Infatti, credo che in questo momento stiamo procedendo al fermo del soggetto che ha avuto le funzioni di comandante, tra virgolette, di questo peschereccio, che lei mi conferma di naufragio, omicidio volontario di centinaia di persone, favoreggiamento dell'immigrazione. Ecco, questi sono i reati, cioè è stata fermata, è stata identificata con quasi certezza la persona, lo scafista, diciamo. È stata fatta un'attività istruttoria difficoltosissima per varie ragioni, perché tutti questi soggetti che entrano in Italia devono essere sentiti con l'assistenza del difensore, perché sono indagati di reato connesso. Ne sono stati sentiti parecchi, hanno permesso di indicare questa persona come un responsabile di questo fatto. Di che nazionalità è vero che è la persona? È tunisino. Loro lo definivano white man perché era di pelle più chiara rispetto a loro, che sono di pelle più scura. Certo. Io intanto la ringrazio, procuratore Di Natale. Vorrei chiudere un minuto però, Pini. Il Nobel a Lampedusa, lei come lo vede, Pini? Guardi, se serve a firmare gli sbarchi ben venga, ma no, penso è chiaro che non serve. E allora penso che sia l'ennesima operazione demagogica ipocrita che non risolve assolutamente nessun tipo di problema. Guardi, mi sembra che alla fine l'unica forza politica veramente interessata, non solo adesso, ma che ha dato dimostrazione anche nel passato, a fermare gli sbarchi e a fermare anche questo tipo di tragedia, alla fine siamo noi. Gli altri stanno speculando solo ed esclusivamente per modificare una legge che è stato dimostrato nel passato, se applicata puntualmente funziona. Chiaramente se poi uno non la vuole applicare o iniziano giochini strani di rimpallo, di valutazioni, di vario tipo, è chiaro che poi alla fin fine... Va bene, mi devo fermare qui e vi ringrazio, procuratore di Agrigento, procuratore capo Renato Di Natale, Gianluca Pini, onorevole della Lega, così come prima ministra alla integrazione Cécile Kyenge, grazie per essere stati con noi, con... Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi, Anita Panizza, davvero grazie, un grande abbraccio, 24 mattino sono loro e allora è anche il nostro grande alpino, Peter Pescapè in regia, ci diamo appuntamento tutti quanti a domani alle 6.30, puntuali, mattinieri, a domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.